Episodio 10. 16. Ascolta l'intervista. Senti, tu come, diciamo, appartenente a una generazione, ti riconosci nella generazione a cui appartieni? Ti senti diversa? Ti riconosci in un gruppo in particolare o in generale? Hai dei valori in comune, dei progetti in comune, qualcosa che tu puoi definire come generazionale o no? Ma io personalmente trovo che ormai il termine generazionale sia un po' difficile da inquadrare nella mia generazione, perché già parlare di generazione è difficilissimo nel mio caso. Siamo talmente diversi, proprio, cioè ci sono delle differenze tra i ragazzi della mia età talmente forti che è molto difficile pensare a una generazione che ha dei valori comuni o delle aspettative, dei valori. Sicuramente ho delle cose in comune con la mia generazione. Ad esempio nell'educazione che ho ricevuto dai miei genitori, una cosa che ci accomuna molto è di aver ricevuto un'educazione particolarmente libera, democratica e da genitori che hanno avuto un'adolescenza molto forte, un'esperienza di impegno politico e più in generale l'utopia di cambiare il mondo che sicuramente ha influito poi nella loro maniera di educare figli. E ti è passata questa utopia, nel senso ti è stata trasmessa? Mi è passata la disillusione di quest'utopia ovviamente, perché poi i nostri genitori della mia generazione sono stati disillusi nella loro utopia e quindi se per molti versi ci sono stati dei cambiamenti grandi e importanti nella società, per molti altri rimane comunque una nostalgia di un'adolescenza che non c'è più e di valori che non si sono realizzati, quindi. E quindi tu avresti qualcosa da criticare alla generazione dei tuoi genitori, qualcosa che adesso da lontano tu vedi come un errore, c'è stato un errore, ci sono stati degli errori di valutazione o di azione della generazione dei tuoi genitori nel costruire questa utopia secondo te? Ma io penso che si tratti di un'utopia che è stata bellissima e che anzi invidio proprio l'esperienza che hanno vissuto da giovani. Sicuramente, probabilmente hanno investito troppo in quest'utopia, molti sono finiti male come sappiamo e per esempio non condivido assolutamente il generale abuso che c'è stato di sostanze stupefacenti oppure in alcuni casi la violenza, la lotta armata, ci sono molte frange estremiste che non condivido, però la linea generale di quest'utopia mi piace molto ancora. E la tua utopia o la vostra utopia come la definiresti? Cioè il futuro per te è un futuro piuttosto ricco di speranze o se vogliamo di paure o di incognite? Beh, un po' tutte e tre. Speranze sicuramente moltissime, come tutti i giovani della mia generazione mi sembra di avere moltissime possibilità perché posso studiare, posso lavorare, posso non lavorare. Cioè in generale abbiamo molte più possibilità di quante ne avessero le generazioni precedenti. Paure altrettante perché come sempre più si hanno possibilità, più si hanno porte aperte e più si hanno ovviamente paure dell'ignoto. Ma quando tu parli, parli sempre in prima persona, quindi mi sembra che tu ti riferisca a delle cose che riguardano te come persona. Io pensavo piuttosto te come appunto persone che avranno di fronte anche la storia, nel senso che potranno determinare dei cambiamenti. Tu aspiri a dei cambiamenti, partecipi ad azioni che potrebbero modificare lo stato di cose, ti immagini un futuro diverso e in che senso? Cioè dove vorresti, cosa vorresti che cambiasse rispetto a quello che tu hai trovato, che ti è stato dato? Ma io e molti altri miei coetanei vedo che c'è un po' un senso di impotenza, cioè mentre i nostri genitori pensavano veramente di poter cambiare le cose, noi forse anche per questa disillusione che c'è stata pensiamo che invece più di tanto non possiamo fare. E sentiamo che ci sono delle forze politiche molto più grandi di noi e che non ascoltano più di tanto l'opinione pubblica. Questo è un forte sconforto per la mia generazione, un forte senso di impotenza che da giovani non bisognerebbe provare, secondo me. Io personalmente, come membro appunto di una generazione, penso che, spero anzi che ci siano dei cambiamenti grandi, soprattutto riguardo i valori portanti della politica. Però più che, cioè, rimane più che altro una speranza. Tu fai politica? No, non faccio politica, non mi riconosco attualmente in nessun partito politico, però ho un mio orientamento di valori.